con Massimo Di Michele, regista e attore dello spettacolo Una ragazzata, liberamente tratto da Tre bravi ragazzi di Silvia Sciarelli, che sarà in scena l'8 ottobre a Roma al Teatro Torlonia. E Massimo, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Presentaci questo lavoro. Allora, questo è un lavoro molto, molto particolare perché è una performance su un fatto che è avvenuto, cioè noi registi solitamente ci confrontiamo con dei testi che solitamente non sono tratti da una storia vera. Qui abbiamo a che fare con una storia vera, è una storia brutta, una brutta pagina del nostro paese, dell'Italia, degli anni 70. Parla della tragedia della strage del Circeo che è avvenuto il 29 settembre del 1975. Devo dire con grande onestà che ho fatto una fatica enorme a pensare ad una performance, ad uno spettacolo sulla strage del Circeo, anche perché iniziando a documentarmi mi sono reso conto che è stata una cosa veramente crudele, brutta, al di là del fatto, ma anche tutto quello che c'è stato intorno, tutta una storia di questi tre neofascisti che veramente erano protetti anche da queste famiglie potenti, e quindi c'è stato veramente insomma, non è stato facile, sono molto onesto e ho cercato di mettere in scena qualcosa di non retorico, di non patetico e cercando di essere proprio, come dire, di andare alla storia, proprio al succo della storia. Ho coinvolto, cinque danzatori dell'Accademia Nazionale di Danza e quindi è una performance con la parola dove noi raccontiamo, io e Federica Rosellini, questa attrice che lavora spesso con me, bravissima, straordinaria. E raccontiamo la storia, la vicenda e tutta la parte fisica è affidata a questi cinque giovani danzatori che sono bravissimi. E quindi è un'ora di performance, un'ora di racconto di questa vicenda, guardandola però con gli occhi di questi tre che organizzano una festa, chiamiamola una festa macabra, e quindi ho cercato di mettere in scena questa vicenda così, così crudele. Mi ripeto, ho cercato di fare tutto veramente col cuore perché non è stato semplice affrontare un tema così forte, un tema che praticamente ti confronti con la realtà. Noi siamo abituati a confrontarci con dei testi che sono stati scritti liberamente, ideati dalla fantasia dell'autore. Qui non c'è un autore, qui c'è la storia vera di queste due donne che sono state massacrate, Rosaria Lopez che ha perso la vita e Donatella Colasanti che è riuscita a sopravvivere nonostante tutto. E grazie a lei c'è stata la testimonianza e sono riusciti a mettere in galera questi tre assassini, questi tre mostri, li chiamerei. Sarà un'ora di ricordo, di riflessione su quello che è accaduto e soprattutto anche una riflessione su come il femminicidio ad oggi non si è mai fermato purtroppo la violenza sulle donne. Io ad aprile ho debuttato sempre qui al Teatro di Roma con Ecos, che era uno spettacolo sul femminicidio, quindi per me è ritornare anche a un argomento a me caro, un argomento delle donne, e basta, che altro aggiungere? Veramente è stato difficile, lo dico con grande onestà, lavorare su questo testo di Federica Sciarelli che ha fatto un lavoro incredibile perché non è un romanzo, ma è solo un'inchiesta dove praticamente ci sono le carte vere di quello che è stato, di quella che è stata questa orribile storia. Tra l'altro, noi avevamo a Radio Onda Rossa ospitato lo spettacolo, si chiamava Donatella come me, di Donatella May, dedicato proprio alla vicenda di Donatella Colasanti, dalla cronaca fino poi a tutto il percorso del processo. Un evento insolito perché Donatella May è un'attrice brillante, quello è stato il suo primo e credo unico spettacolo drammatico. Rispetto alla pagina scritta, dicevi che è una cronaca e con atti giudiziari. Ecco, cosa ti ha convinto di questo testo? Allora, prima di tutto mi ha convinto, cioè, trattare un argomento che tratta di qualcosa che è accaduto, quindi Sì. non perché, però spesso noi affrontiamo anche tematiche un po' così futili, non perché sia futile far ridere o non perché sia futile raccontare una storia scritta da un drammaturgo. Però, secondo me, il mio punto di vista, raccontare un fatto che è accaduto e raccontarlo per denunciare, per riflettere, ha un valore in più, ha uno spessore, ha un peso in più. Questo è il mio pensiero. Mi ha convinto che ho iniziato a leggere documenti su questo fatto e non finivano mai. Cioè non finivano mai questi signori che fuggivano, un altro che non si è fatto un giorno di carcere, Gianni Guido che è libero ad oggi, vive tranquillamente e serenamente a Roma, l'altro che è uscito e ammazzato di nuovo. Insomma, una vicenda che mi ha lasciato veramente di ghiaccio, basito, perché io sono onesto, non conoscevo questa storia così bene. Sì, sapevo che c'era stata questo omicidio, questa violenza, però quando inizi a studiare, a documentarti e vedi che è una storia veramente infinita, di carte, carte, carte, infatti in scena, si lavora con la carta come materia prima, cioè c'è questa materia che è sempre in scena, di questi fogli, che sono la pelle di queste donne, che sono tutti gli scritti che ci sono stati, tutti i documenti, questi faldoni, di carte scritte. Mi ha convinto questo, mi ha convinto che c'era bisogno di ricordare in un paese che spesso dimentica, ecco, un paese un po' privo di memoria, mi permetto di dirlo. Allora, ricordiamo allo spettacolo Una ragazzata, liberamente tratto dal libro Tre bravi ragazzi di Federica Sciarelli, l'8 ottobre a Roma, al Teatro Torlonia. Un saluto e un ringraziamento al regista e attore Massimo Di Michele. Massimo, in chiusura ci dai anche i riferimenti web per saperne di più sullo spettacolo? Trovate tutto sul sito del Teatro di Roma, io vi aspetto, vi ringrazio tantissimo, voglio ringraziare Federica Rosellini che ha collaborato con me, voglio ringraziare il Teatro di Roma e voglio ringraziare Fabio Caputo che ha curato le coreografie e voglio ringraziare anche l'Accademia Nazionale di Danza. Grazie. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci Viva presto. e viva il lupo! Ciao Massimo.